Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Eccoci qua. Credo che Kundari debba mettere, ecco, i miei ospiti che sono in studio devono mettere 800 24 00 24. Siamo qui per parlare del referendum elettorale, argomento di grande attualità politica. Voi sapete di che si tratta, noi sappiamo di che si tratta, essi sanno di che si tratta. Si tratta di questo, che il referendum chiede di fare quello che già è stato fatto. Quindi è pleonastico, questo è il mio giudizio. In quanto, cosa chiedono i referendari che vanno rispettati, la cui posizione è assolutamente legittima e che sarebbe più sensato accontentare abbinando referendum, secondo me sempre, ed elezioni europee? Cosa chiedono? Chiedono di organizzare la legge elettorale in modo tale da ottenere che cosa? La stabilità e la possibilità del cambiamento. Che cosa abbiamo ottenuto noi con le nuove leggi elettorali maggioritarie? Tutte, col Mattarellum e poi con quella successiva, la cosiddetta porcata, così la definì Calderoli, che ne è l'autore. Abbiamo ottenuto la stabilità e il cambiamento. Cioè, chi vince, vince e vince sul serio. Gli elettori scelgono un presidente del Consiglio e non una nomenclatura. Chi vince ha la concreta possibilità, salvo se vince per 12.000 voti e si impunta a fare Cesare, quando ha la forza di un piccolo luogotenente, come è successo a Prodi, chi vince seriamente ha la possibilità di governare circa 5 anni, che è il limite, diciamo, che nelle democrazie è attribuito alle legislature. E poi si vede, se convince, rivince, se non convince, come è successo per esempio a Berlusconi nel 2006, sia pure di poco, perde. Allora, ci sono delle verità assolute, no? Il conflitto di interessi esiste, è enorme, è mostruoso, però noi sappiamo perfettamente una cosa, che le televisioni ti consentono di vincere le elezioni e ti consentono anche di perderle. Tu ne sei proprietario, puoi vincere, puoi perdere. Quindi la democrazia reale, effettiva, è superiore alla democrazia virtuale, all'homo videns. Ma è un fatto oggettivo e sperimentale, è successo. Ha vinto, ha perso. Questo è con le elezioni. Poi ha cambiato gli italiani, ma che sono gli italiani? Gli italiani sono gli stessi da secoli, non sono stati cambiati da Canale 5. da secoli si sa come sono fatti gli italiani, che adorano il particolare, che non sono particolarmente affezionati allo Stato, soprattutto alla retorica del senso dello Stato. Da secoli si sa tutto questo. Su, avanti. Vabbè, comunque, io dico questo. Il referendum vuole ottenere ciò che già c'è, quindi è pleonastico. Però è un diritto costituzionale, hanno raccolto le firme e soprattutto vorrebbero che fossero utili queste firme. Quindi se il referendum si fa il 6-7 giugno insieme con le europee, il quorum c'è, perché la gente va ai seggi, si trova quella scheda e decide di votare per il sì o per il no. E quindi per la riforma della legge elettorale che, diciamo, ristabilisce più o meno le posizioni che ci sono oggi, insomma, sì, un po' più radicale, un po' più netta la scelta, il, o di là o di qua, insomma, un po' più forte ancora la eliminazione del si passa al bipartitismo in senso più integrale, diciamo, teoricamente, anche se poi naturalmente nascerebbero delle liste con dentro diverse componenti, perché vabbè, poi spiegheremo meglio il tutto. Abbiamo graditi ospiti il professor Giovanni Guzzetta, che è il capo dei referendari, insomma è colui che presiede questo organo, che è un organo costituzionale oggi, veramente da rispettare, lo dico senza nessuna ironia, promotore, il comitato promotore dei referendum ed estensore dei quesiti referendari. Abbiamo con noi Luciano Dussin, vice capogruppo vicario della Lega Nord alla Camera, è membro della Commissione Affari Costituzionali, e Luciano Dussin deve esserci a rappresentare qui la Lega, perché la Lega ha detto non se ne parla proprio di fare le elezioni europee, il referendum abbinati, perché a noi non ci piace che scatti il quorum e noi non vogliamo che questo referendum, come dire, indebolisca la Lega Nord gravemente. E questo sì, lo farebbe il referendum, metterebbe la Lega Nord di più sotto la custodia e la protezione del grande PDL, il partitone di Berlusconi e dei suoi compagni. E poi Francesco Kundari del Foglio, che ha una posizione diversa dalla mia, che sentirete nel corso della conversazione, molto negativa su questo referendum e su tutta la retorica del maggioritario. Insomma, comunque la cosa è piuttosto interessante. Bene, mettiamola in modo un po' provocatorio, via, come ho cercato di fare all'inizio. Professor Guzzetta, lei ha promosso un referendum per rendere il sistema politico italiano bipartitico sostanzialmente. Due liste, chi vince, chi prende la maggioranza relativa, prende un premio di maggioranza e governa per 5 anni. E per quanto riguarda la rappresentanza di tutti gli altri, o spiccioli oppure una rappresentanza appunto minoritaria di controllo alla lista che arriva seconda. E la mia tesi è che questo già c'è. In questo Parlamento noi abbiamo due gruppi sostanzialmente, più vabbè, Casini, che vabbè, insomma, è del tutto irrilevante, il gruppo dell'UDC, sono da rispettare naturalmente, ma sono, non contano niente, insomma, ecco, sì, contano perché Casini è imparentato bene, contano per tante varie ragioni, perché sono amici della Conferenza Episcopale Italiana, ma politicamente non hanno senso. Le cose che si discutono e si discutono tra la maggioranza e la minoranza del Partito Democratico. Poi c'è Di Pietro che fa un gran baccano, così più o meno destabilizzante, ma insomma, via, Partito Democratico e Partito delle Libertà, Popolo delle Libertà, questo c'è. Allora, il referendum realizzerebbe più o meno la stessa soluzione. Beh, con è una utile. Significativa prego. Differenza. Prego, prego. È sotto gli occhi di tutti la differenza, e cioè noi nella vicenda che riguarda l'abbinamento abbiamo assistito a che cosa significa un sistema nel quale una minoranza dell'8% ha un potere di ricatto sulla maggioranza del Parlamento. La Lega con l'8% parte... Sì, vogliamo dire politologicamente che ricatto è la parola moralistica per dire condizionamento. Sì, condizionamento. Il Parlamento, ciascuno esercita un condizionamento, quando il condizionamento va nella direzione che non ci piace, lo chiamiamo Chiamiamolo condizionamento. Chiamiamolo condizionamento, cioè i governi di coalizione che ci sono ancora, perché quello attuale è un governo di coalizione, consente a un junior partner dell'8% di minacciare la crisi di governo se la maggioranza non fa quello che dice. Questa è una condizione che con l'approvazione del referendum non si verificherebbe più, perché il partito che ottiene la maggioranza, mettiamo che sia il PDL, visto che oggi è il partito maggiore, governerebbe senza dover soggiacere al condizionamento / ricatto della Lega. Altro, secondo me, si potrebbe obiettare, non so cosa ne pensa Francesco Cundari, che è una riduzione, diciamo, della capacità della democrazia di esprimere una dialettica politica vera. Io vorrei che le parole di Guzzetta fossero veramente... Io inviterei lo stesso Guzzetta a riflettere sul significato delle parole che ha appena pronunciato. Cioè, questo pure è moralista, però. No, un po', moralista. No, ma è proprio ermeneutica, però, diciamo, dal punto di vista analitico, non lo dico né nel bene né nel male. Analitici, cerchiamo di semplificare. Avete ragione, chiedo perdono per le brutte parole che ho detto. La questione è questa. E il professor Guzzetta ha detto una cosa chiarissima, e io per questo invito a rifletterci. Dice: no, con il referendum non sarebbe più possibile che un partito dell'8%, che vorrei far notare, io non sono certo un leghista, ma l'8% sono alcuni milioni di italiani, non abbiamo detto lo 0,01. Con il referendum non potrebbe essere più possibile che un partito dell'8% possa condizionare / ricattare il capo. Non mi sembra, come dire, un bel quadro. Perché? Tra l'altro, cioè, lei dice, Cundari, è bene che ci sia una possibilità. È bene che la decisione sia presa da una minoranza piuttosto che dalla maggioranza. No, non abbiamo detto questo. Infatti, sulla questione dell'election day, noi abbiamo, il governo sta prendendo una decisione che è la volontà di una minoranza, della maggioranza. No, il governo prende una decisione che è la volontà del governo, che ovviamente deve discutere al suo interno e trattare con tutti. Se Berlusconi avesse voluto fare l'election day e sfidare Bossi, cosa che in teoria potrebbe ancora fare, lo avrebbe fatto. Si sarebbe dovuto assumere la responsabilità di una crisi di governo in questo momento. No, questa se la sarebbe assunta Bossi, semmai se avesse deciso di fare la crisi di governo. Allora, per informazione degli ascoltatori, ha ancora 48 ore il governo per decidere eventualmente di fissare la data dell'election day, ma tutti considerano che questo non sarà fatto perché c'è un accordo Berlusconi-Bossi in senso contrario. Sentiamo Luciano Dussin, naturalmente, che rappresenta questo 8% che ci stiamo rimpallando in uno strano ping pong. Onorevole Dussin. Ma intanto l'election day probabilmente non si fa, non per interdizione messa in campo dalla Lega, ma perché in 40 anni di storia del referendum l'Election Day non ha mai visto accorpare il referendum con le elezioni, quindi è la storia della Repubblica italiana. 46, onorevole, il 2 giugno 46 non c'era la Costituzione. Questo... ecco appunto, appunto quale motivo maggiore per distinguere? Allora un momento, allora Guzzetta rispondeva a Dussin dicendo no, non è vero, un Election Day c'è stato, è quello che ha fondato la Repubblica, perché ma non c'era ancora, è un'opinione fuorviante per non parlare del problema. Il problema è che il referendum in 39 anni di storia è stato votato sempre da solo per evitare effetti di strascinamento, di portare valore aggiunto o condizionando gli elettori a presentarsi nei seggi elettorali e dover dire non accetto la scheda, e quindi venir meno della possibilità di scegliere stando a casa se partecipare o meno al voto. Ma questa è storia. Guarda, questo argomento, scusi Dussin, io sono solidale. Dussin, prima... mi ascolti? Sì. Io sono solidale. No, è giusto che lei parli mentre io la interrompo, perché io non dovrei interromperla, però lei deve capire che quando io la interrompo lo faccio per il bene della causa. No, dicevo, l'argomento secondo cui il governo non deve favorire l'arrivo dei cittadini in un seggio e l'esercizio di un diritto elettorale non è un grandissimo argomento. Cioè, se c'è un diritto da esercitare alcuni cittadini, il governo dovrebbe favorire, insomma, se no facciamo il referendum il 15 d'agosto, no? È sempre stato così, però sì, no, è anche giusto ricordare che è un dovere civico partecipare alle elezioni e non lo è per il referendum, perché il referendum è un'iniziativa che può partire da dei cittadini, anche se questa non è un'iniziativa che parte da dei cittadini ma da dei partiti, e dopo penso ne discuteremo anche. Certo. Però il fatto che Guzzetta continui a proiettarci verso un futuro che vede un partito unico al governo del paese, vede la Lega contraria, ma noi siamo per una forma di pluralismo nella gestione della politica. E è vero una cosa, cioè è dal minimo dal 1996 che ci sono dei partiti che cercano in tutti i modi di portarci al bipartitismo. Noi siamo arrivati a un bipolarismo oggi che funziona, perché non abbiamo 5 o 6 gruppi parlamentari solo, se sembrano troppi anche questi, vabbè, però è un'idea dei ma non c'entra niente col referendum, lei sta dicendo le cose che col referendum non c'entra. Senta Dussin, Guzzetta si deve avvicinare un pochettino al microfono, un palmo e mezzo. Dussin, scusi, che cosa avete pensato ieri quando Fini ha dato la solita botta? Abbiamo pensato perché Fini ha detto qui si sprecano i soldi con le sue idee, perché Fini è da parecchio tempo che lavora per il bipartitismo, non a caso ha fatto entrare la sua alleanza nazionale in Forza Italia, o comunque hanno dato luogo a un soggetto unico che si chiama Popolo delle Libertà, e quello è il suo progetto politico. Dall'altra parte c'è chi lo ha copiato, perché l'accordo partiva ancora dal 96, quando volevano tirar via anche la quota proporzionale, che era l'ancora di salvataggio per i piccoli partiti, per non essere costretti ad entrare nei grossi agglomerati politici, e dall'altra parte si è fuso l'allora DS con il Partito Popolare, hanno dato luogo al PD, e loro due vogliono misurarsi. Berlusconi contro adesso Franceschini, sarà D'Alema, Bersani dopodomani, e questa è la loro logica. Due partiti, noi ovviamente non ci stiamo, anche perché non è vero che viviamo in una confusione elettorale, perché ricordo che con questa legge attuale che abbiamo, definita porcata, ma non per i contenuti della legge, perché sono le segreterie dei partiti che possono provocarne una porcata dopo. Sì. Abbiamo visto che con la stessa legge siamo passati da 16 gruppi parlamentari a 6. Sì, sì, infatti. E funziona la legge. E anche la tesi, professor Guzzetta, di Luciano Violante, che sulla stampa di oggi dice più o meno quello che ho detto io in un'introduzione, naturalmente con parole sue, concetti suoi, eccetera. Ma non posso dire un paio di cose? Sì. Allora. Però l'obiezione di Dussin è formulata bene, intelligente, perché lui dice Fini è bipartitista, da sempre voleva abolire la quota proporzionale quando c'era il Mattarellum, cioè c'è gente che pensa che bisogna semplificare ancora in modo più radicale, lui dice no, secondo me abbiamo semplificato abbastanza. Ma non è un problema di semplificazione, scusi. Prego. Allora, perché gli ascoltatori sappiano, se passasse il referendum la Lega avrebbe la sua rappresentanza in Parlamento così come ce l'ha oggi. Non cambierebbe assolutamente nulla. L'unica differenza è che la Lega non potrebbe fare ciò che fa è una vecchia abitudine italiana, di fare il partito di lotta e di governo, esattamente quello che ha fatto la sinistra radicale a parti invertite nello scorso governo. Questo è il principio. Non c'è nessuna forzatura, la Lega avrebbe la sua rappresentanza, ma non potrebbe esercitare quel potere di condizionamento che esercita. Però oggi il problema, scusate, non è questo. Oggi il problema non è il merito del referendum di cui parleremo in campagna elettorale. Oggi il problema è che è stata assunta una decisione, o sembra che starà per essere assunta una decisione, che stabilisce che la decisione di maggior buonsenso, cioè quella di fare il referendum insieme alle elezioni europee, cosa che quattro presidenti emeriti della Corte Costituzionale ritengono sia perfettamente legittimo, non viene fatto e non sarà fatto, perché qualcuno ha detto che avrebbe aperto la crisi di governo, e questo qualcuno si chiama Lega. Sì, questo lei dice quindi un condizionamento improprio, eccetera. Roberto da Roma, che ha un'obiezione da farle. Sì, Roberto. Sì, buongiorno. No, è un po' più o meno quello che abbiamo visto con il maggioritario in passato. Cioè, l'utilità marginale per i piccoli partiti sale, cioè nel senso il ricatto o la... il condizionamento di cui le parlava lei, si parlava prima, con questo se passasse il referendum si verificherebbe prima rispetto. Cioè lei dice siccome il referendum stabilisce che la lista che arriva prima ha il premio di maggioranza e governa, i piccoli partiti condizionerebbero chi mette in moto quella lista, chi la costruisce, sì, come soggetto politico, dicendo se vuoi arrivare primo devi avere medesimo. È giusto. Prima. È giusto. Però allora Guzzetta, cosa risponde? C'è una certa differenza tra farlo prima davanti agli elettori e dopo che le elezioni sono state. Domanda: cosa impedirebbe a quegli stessi piccoli partiti il giorno dopo le elezioni di tornare a sciogliersi, a farsi il loro gruppo parlamentare separato e quindi a moltiplicare i partiti? Il fatto che sarebbero puniti dal paese. Ah. Certo, perché se non fosse vero, il paese non avrebbe premiato con il 70% dei consensi i due maggiori partiti. Il paese vuole la semplificazione e vuole colpire tutte queste forme di trasformismo e di ricattismo che vengono esercitate. Se posso dire, possiamo essere cinici quanto ci pare, secondo me la storia va in quella direzione. Prego Kundera, abbiamo un minuto e mezzo per chiudere la prima fase della trasmissione e dare la pubblicità. Io vorrei dire solo una cosa, che a proposito di cinismo e di semplificazione, io non penso che la vittoria del sì semplificherebbe nulla per le ragioni che abbiamo appena detto, ma soprattutto io credo che bisognerebbe chiarire una cosa, che qui si dice sì per cambiare la legge porcata, e così tutti gli italiani dicono ah certo, quella legge in cui sei di sette capi partito nominano tutto il Parlamento, che cosa brutta, cambiamola. Peccato che con il quesito presentato dai promotori la legge porcata viene rafforzata, non si lascia affatto, raddoppia, cioè togliendo soltanto il premio, la possibilità di coalizzarsi, dando il premio di maggioranza solo alla singola lista, di fatto che cosa succede? Che dove prima c'era un Parlamento nominato da 6-7 capi partito, avremo un Parlamento nominato da 2 capi partito. Allora, ma non questo è vero questo. Non è come vero. Non è vero? Non è vero, la rappresentanza rimane esattamente identica come oggi. Quindi non diciamo. Quindi non è un diciamo referendum per cambiare false. Questo aspetto. No, questo aspetto rimane identico. Il sistema è proprio. La legge porcata non l'ho fatta io. No, okay? Certo. Bene. Lei dice però che io la vuole cambiare. Io sono un cittadino che osserva che il Parlamento sono 30 anni che si riempie la bocca di voglia di riformare e non riforma niente. L'unica riforma che è stata fatta in 30 anni si chiama legge porcata. Io da cittadino. Questo veramente non è vero. Ma insomma, come no? Come no? Non è mai stata fatta una riforma. Non in è mai Italia. Stata fatta una riforma della forma centrale di governo. Mai. Da 30 anni a questa parte. Nessuna. Me ne indichi una? Nessuna. Che cosa significa? Mi scusi, significa che non sono un costituzionalista. Riforma della forma centrale di governo. Significa il governo, significa la legge elettorale, significa questo. Sono state fatte solo. Sono cambiate le leggi elettorali. Perché una c'è volta stato all'anno. Un referendum. Perché c'è stato un referendum. E poi è stata fatta la porcata. Questo è il dato. Quindi il Parlamento è incapace in Italia di autoriformarsi. Allora, un cittadino che cosa deve fare se questa legge elettorale non gli sta bene? Chiedere un referendum. No, ma sulla legittimità del referendum. Nessuno lo discute. Allora, la questione neanche Lussin è contrario. La questione la affrontiamo subito. Perfetto. Siete molto accesi, questo mi fa piacere, rende sapida la trasmissione. Appassionati. Pronto? Sì, ecco Cesare, prego. Sì, buongiorno Ferrara. Senta, sì. Io voglio dire una cosa, qui si sta parlando, si sta discutendo di date, di... però non si discute del contenuto del referendum, si discute, a me sembra che si scavalca un po' il buonsenso degli italiani. Io ricordo benissimo... Lei quando lo vorrebbe fatto il referendum? Cosa? Il 6-7 giugno insieme con l'Europa, quando vorrebbe che si tenesse il referendum? Allora, certamente per risparmiare 500 milioni di euro. Sì. Quindi lei è per il 6-7 giugno, l'abbinamento. Certo. Però non so se lei si ricorda quella volta che Crack si invitò tutti ad andare al mare, come sta facendo la Lega praticamente adesso. So se sì. Si ricorda quella volta. Sì. Il referendum per la preferenza unica, sì. Detto anche quella volta da Segni. E gli italiani, avendo buon senso, andarono in massa a votare. Sì. Quindi io probabilmente succederà la stessa cosa, me lo auguro. Sì. Qui tutto si parla, meno del sì. Consenso. Avendo un buon senso, gli italiani votarono praticamente per l'eliminazione delle preferenze, no? La preferenza unica. Adesso ci stanno a fare una testa così, dicendo che senza le preferenze non c'è la democrazia. Ma lei si rende conto di come è curiosa e arrabescata la politica italiana? Le preferenze erano un simbolo di corruzione, adesso sono un simbolo di democrazia, sono passati solo 15 anni. Come cambiano le cose? Vabbè, sono l'unica soluzione, le preferenze. Sentiamo Fabrizio da Roma che ha un'altra opinione. Fabrizio. Sì, buongiorno. Io volevo fare un appunto al professor Buzzetta. Vorrei essere ironico, non irriverente, insomma, ecco, quindi non si offenda. Però per quello che lui definisce ricatto, effettivamente esiste già una voce nel vocabolario italiano, la può trovare cercandola, che si chiama democrazia, tutto qui, ecco. Va bene, grazie. Da Brescia introduce l'elemento di cui non abbiamo ancora parlato fino adesso, ma bisogna parlarne. Posso rispondere alla provocazione? Aspetti, grazie. Ci sta riferendo perché gli argomenti sono eccoci. Pronto, io mi riferivo all'argomento principale, innanzitutto lo spreco di denaro, mi sembra sia un'offesa a queste povere persone che stanno vivendo dei momenti terribili, prima, e questo argomento si riferisce anche al momento in cui si deve fare questo referendum, è la circostanza che obbliga a farlo assieme alle elezioni europee e alle provinciali, perché non è mai esistito che sia stato fatto in una circostanza così drammatica e così tragica, primis. Questa legge Porcellum è stata fatta da 4-5 persone poco intelligenti, che a questo punto doveva esserci un referendum anche per creare questa legge. Questo punto, siccome non è stata fatta con un referendum, a questo punto può essere abrogata, come le persone vanno a votare nel 50% e passa degli italiani per Berlusconi, possono anche votare a favore o non a favore del referendum che poi è solo a favore esclusivamente della Lega, che non c'hanno così paura, io non lo avrei se fossi nel loro, perché io non voto Berlusconi, votano in tanti Berlusconi, voteranno anche a favore di questo referendum, visto che è stato voluto anche dal Popolo della Libertà. Bene, Dussin, onorevole Dussin, l'argomento dei quattrini è ambiguo, perché naturalmente la democrazia ha un costo, se cominciamo a fare le pulci a quanto costano le elezioni, i referendum, eccetera, non si sa dove si va a finire. Però è efficace demagogicamente, perché colpisce, la gente dice, ma come, ci sono le tende, la ricostruzione, l'Abruzzo, il terremoto, la crisi, le risorse non ci sono, potremo spendere di meno abbinando due consultazioni elettorali e invece che facciamo? Spendiamo di più. Quello dei costi è uno spot, difatti si parla di più dei costi del referendum che non dei contenuti del referendum, e con i costi si vogliono mascherare gli effetti del referendum che ci porterebbe verso il partito unico, perché è di questo che si parla, un partito che vince le elezioni col 23%, che si trova a governare il paese con il 55% dei seggi attribuiti grazie ai premi di maggioranza, che poi magari con qualche coalizione, con qualche partito all'opposizione può arrivare a raggiungere una maggioranza dei 2/3 e cambiare la Costituzione senza più il bisogno di passare per un referendum popolare, perché sarebbe vietato dalla stessa Costituzione. Quindi daremo in mano un potere assoluto a un segretario di partito nella fattispecie potrebbe essere Berlusconi, ma potrebbe essere chiunque altro un domani. È di questo che si sta parlando, che stanno andando in referendario. Quindi lei dice, se da una parte milioni, c'è... Posso dirle un'ultima cosa, prego. 400 milioni di euro di costi ci sono sempre stati dal 1970 e ci saranno probabilmente anche il prossimo anno, perché i cittadini quando vanno sui banchetti a dare la propria adesione per il referendum contro il lodo Alfano di Di Pietro, sappiano che attiveranno un'altra spesa di 400-500 milioni di euro. Ma non si possono dire queste cose. Sentiamo la risposta di... Ma non si possono dire queste cose e disinformare gli italiani. Qui il problema non sono i costi della democrazia, perché è chiaro che la democrazia costa, le elezioni costano. Qui il problema sono i costi inutili, cioè quelli che si possono risparmiare. Non è il problema del costo della democrazia. Allora bisogna che gli italiani sappiano che se oggi aprono i giornali leggono da una parte che è stato rifiutato l'election day e dall'altra che verrà introdotta una tassa che ha un gettito corrispondente a quello che si risparmierebbe se si facesse l'election day. È il dato. Dopodiché voi lei la chiama demagogia. Io mi ricordo sarà pure demagogia, però diciamo voi ne avete fatto buon uso con lo slogan Roma ladrona. Allora francamente da lei lezioni di probità francamente non l'accetto. Per quanto riguarda io c'ho qui c'è una cosa importante da dire. Io c'ho qui Sergio da Ancona quasi un'ora che mi hanno messo la scheda, dice che Sergio D'Ancona vorrebbe dire al microfono: Ferrara è un personaggio molto acuto, argomenti molto interessanti, non ne posso più, devo dargli la parola, abbiate pazienza. Sergio. Dottor Ferrara, buongiorno. Ma spero che lei confermi i suoi giudizi. Mi dispiace solo che ho dovuto spegnere la radio e sento pianissimo. Sì. Io le devo fare innanzitutto tre cose velocemente, vorrei dire un complimento a lei. Adesso i complimenti ci ho scherzato sopra, mi dica gli argomenti che secondo lei sono interessanti. Non è più alla 7. Questo è un cose troppo personale. Primo, andiamo sugli argomenti. Va bene, secondo vorrei dire questo per l'argomento che state trattando. Io sono d'accordo con l'accorpamento, mi dispiace per i referendari, per l'opposizione che si ostinano a voler fare critiche al governo, ma sappiano che anche in questo caso stanno sbagliando. Mi dispiace per loro, ma questo governo sta facendo bene, sta facendo tutto bene. Non appoggiare questo referendum per me è un segno di democrazia, non come dicono i referendari, è un grande segno di democrazia. Sono d'accordo perfettamente che è una cosa inutile, ma comunque visto che è stato richiesto, ci sono sei ministri dell'attuale governo che hanno firmato. Sergio, devo dare la parola, prego. Ci sono sei ministri dell'attuale governo che hanno firmato per il referendum. Chi vi faccia i nomi? Prestigiacomo, Alfano, Brunetta, Rotondi, La Russa e ce n'è un altro che adesso non mi viene. Ma come hanno firmato per il referendum? Sono nel comitato promotore del referendum. Ma di cosa vi stupite? Ma voglio dire, giustamente il professor Guzzetta. Questo è Kundari che parla, il cronista politico fuori linea del Foglio. Esatto, prego. Che sarà licenziato alla fine della trasmissione. E quindi, come ultimo messaggio al popolo, vorrei dire questo: il professor Guzzetta, sulla stampa di ieri, ha detto parole chiarissime ancora una volta, ha fatto un appello a Berlusconi perché, cito a memoria perché è quasi indimenticabile, dice: non sperperi questa ulteriore credibilità che si è conquistato gestendo da uomo di Stato il terremoto, colga l'occasione del referendum per liberarsi dei ricatti di Bossi, un tema che ritorna, e l'occasione per il bipartitismo, per governare da solo con il suo PDL al 55% come sogna di fare. E voi vi stupite che sei ministri del governo abbiano firmato il referendum? Io mi stupisco che non l'abbiano firmato tutti e temo che anche lì Berlusconi e buona parte del governo non lo sostenga, perché sennò si capisce. Scusi, ma allora le faccio una domanda: ma perché Franceschini col suo golfino va sempre in giro a dire ragazzi, bisogna risparmiare, abbiniamo, se l'abbinamento produce... Glielo dico subito, secondo me, perché io ho un'interpretazione molto maliziosa di questa cosa, e cioè che Franceschini ha scommesso, ha giocato alla roulette russa e ha scommesso sul fatto che la Lega sarebbe riuscita a fermare Berlusconi, e quindi ha detto: ho un argomento facile, demagogico, di facile presa. E che l'argomento sia strumentale lo dimostra il fatto che il comitato referendario, quello dei soldi, dico, che il comitato referendario e lo stesso Partito Democratico questo argomento lo hanno cambiato in corsa più volte. Perché il punto, intendiamoci, se il comitato referendario avesse proposto il suo referendum, normalmente, come si è sempre fatto da quando ci sono i referendum in poi, senza election day, e poi improvvisamente, davanti alla tragedia dell'Abruzzo, avessero detto: io non sarei stato d'accordo comunque per ragioni di principio, però se avessero detto a quel punto: beh, bisogna risparmiare questi soldi, come ha detto Guzzetta, allora risparmiamo. Si è accorto che c'è una crisi economica? No, no, no, certo, anche per la crisi economica. Crisi economica. Ecco, peccato allora... che voi l'avete fatto. Allora avete previsto la crisi economica prima di tutti, prima degli economisti americani. Perché voi l'election day, mi faccia finire, più mi perdono. L'election day voi l'avete chiesto prima. Un mese perché fa. Volevate c'era già la crisi un mese fa. Sì, va bene, per la crisi economica. E Franceschini ha chiesto l'election day per i soldi alle forze dell'ordine, perché c'era un'emergenza, e quindi, siccome le forze dell'ordine stavano tanto male, bisognava darli a loro, e per questo, accidenti, bisognava fare l'election day. Poi ha visto che la tragedia in Abruzzo faceva più presa, ha detto: chi se ne frega delle forze dell'ordine, adesso stanno benissimo le forze dell'ordine, si arrangino, bisogna fare l'election day per dare... Ma che discorso è? È un tentativo di fare della controdemagogia. No, è un discorso razionale. Se voi non aveste chiesto l'election day prima del terremoto, sareste più credibili. Come lei sa, il denaro è un bene fungibile, può essere impiegato in vari modi. L'unica cosa che non varrebbe la pena di fare è quello di buttarlo, il denaro. Dopodiché, se uno lo riesce a risparmiare, poi decide come spendere. Questa è una battuta efficace, non posso negare. Allora però, cosa succede? Bellissima battuta, ma cosa succede? Una cosa sola, che spunta un parlamentare del PDL che dice: abbiamo fatto 30, facciamo 31. Lucio Malan propone: voi dite che con l'election day si risparmierebbero X milioni, 400, 300. Benissimo, io ho una proposta per risparmiarne molti di più. Rinviamo il referendum e cancelliamo i ballottaggi dalle amministrative. Cominciamo a smontare le leggi elettorali e le regole fondamentali delle democrazie in un asta al ribasso. Chi offre di meno? Adesso si propone non è questo il problema, di togliere... Guardi, è una proposta intelligente. Lei è troppo intelligente per poter utilizzare questo argomento. Ripeto, il problema non sono i costi della democrazia, perché non possiamo mica abolire le elezioni perché ci costano. Meno male. Il problema sono i costi inutili. Cioè pigliare i soldi e buttarli dalla finestra. Questo è il tema del giorno. Non sono i costi della democrazia, sono i costi inutili. Io vorrei fare un esperimento. Diciamo questo. Adesso è chiarissimo che non c'è accordo fra voi tre, no? Dussin, l'onorevole Dussin, Guzzetta. Mi stupirei del contrario. Però vogliamo fare una cosa. Mettiamoci d'accordo su una cosa. Il buonsenso suggerirebbe di abbinare il referendum e le elezioni europee. Poi il buonsenso è contraddetto dagli interessi in politica, cioè, che sono divergenti. Io già non sono d'accordo, sia chiaro. Ma no. Prego. Io vorrei su questo invece, anzi stabilisco che siamo d'accordo per forza, perché non si può non essere. Ma come si fa a non essere d'accordo? Il buonsenso lo dice. No. C'è una data, c'è il referendum, uno abbina e risparmia. No, non voglio prendervi troppo tempo, se vuole glielo spiego. Beh, me lo spiega dopo le strade in diretta. Ma veramente lei non ci sta a questo patto del buonsenso? No. Dussin, lei ci sta al patto del buonsenso? Poi non è che la conseguenza è che bisogna votare il 6-7, perché ci sono altri problemi di organizzazione e di vita della democrazia. No, non è di buonsenso. Guardi, attivare un referendum è cosa molto seria, soprattutto per i costi che ne conseguono. Finora è da ricordarsi che è da 12 anni che i referendum non raggiungono i quorum, quindi il fallimento è, e i costi sarebbero da addebitare a chi li ha ma cambiate la Costituzione, tranne quello del 2001. Cambiate la Costituzione, abolite il referendum. Perché era una modifica costituzionale. Vabbè. Allora non riesco a ottenere questo accordo sul buonsenso, d'accordo? No, strada in diretta. È un'iniziativa referendaria che parte da dei partiti ma non è affatto vero, io non sono di nessun partito. Dopo vediamo, se il referendum è spontaneo o spintaneo. Bene, 800 24 00 24. Sentiamo Giuliana da Pistoia. Pronto? Giuliana, buongiorno. Pronto? Eccomi, la sento benissimo, può parlare. Allora, io sono piuttosto vecchia, ne ho passate tante, ne ho viste tante, però io vorrei dire questo. La Lega, che in un primo tempo mi piaceva tanto, mi comincia a passare un po' la lavore per questo partito, chiamiamolo, perché si parlava di levare le province, non se ne parla più perché la Lega non vuole. Ora c'è il referendum, la Lega non vuole, ma è diventato il partito del no perché è tutto prodomo sua? Allora, sentiamo la risposta dell'onorevole Dussin. La domanda è chiara e molto... Guardi, rispondo semplicemente così, l'ho detto prima. Questo referendum parte come iniziativa da dei partiti che hanno dei nomi e dei cognomi, che si sono fusi e adesso si chiamano PD e PDL. Il fatto che in Cassazione ci siano le loro firme e anche dei ministri che l'hanno sottoscritto dimostra che se i partiti hanno la necessità di cambiare le leggi elettorali, propongono un disegno, un progetto di legge e si vota in Parlamento, non mandano Guzzetta ed altri ad attivare il referendum per far perdere tempo e spendere patrimoni. A me non mi ha mandato nessuno e si attenta a quello che dice, per cortesia. No, Guzzetta, Guzzetta è un politologo cattolico democratico, moroteo mi pare di... No, ma lui si presta a un inizio... No, io non mi presto a nulla. No, no, adesso scusi, Dussi, obiettivamente, adesso che ci sia della gente che la pensa diversamente da lei, da Kundari o da tante altre persone rispettabilissime, e questo lo deve riconoscere, su, perché deve dire che è stato mandato da qualcuno? No, mandato, si presta al gioco da dei partiti che hanno cominciato dal 96 a proiettare il paese verso il bipartitismo e chi vince è meno male unico di governo. No, si presta, fa lo stesso gioco perché la pensa in quel modo, certo, certo. Ma e questa signora invece da Pistoia, Giuliana, questa anziana signora che dice a me la Lega piaceva, però adesso non volete abolire le province, non volete risparmiare sulle... Cioè, sono argomenti anche un po' leghisti questi che vi vengono opposti adesso, no? Ma guardi, il fatto di abolire le province, noi chiudiamo le province che funzionano male, ma i 16 miliardi di euro che gestiscono ogni anno le province non vanno in stipendi, perché tutti sanno che i consiglieri provinciali non si pagano neanche la benzina con i gettoni che prendono. In questi soldi qua comunque andrebbero spesi dalle regioni o dai comuni, perché per mettere a posto le scuole e le strade di competenza, se non li spendono le province li spendono le regioni. Cioè, anche questa è un po' molto spesso usata come spot, no? Si cerca la risoluzione di tutti i problemi inventandosi. Adesso il mondo va male perché ci sono le province che funzionano male, e il referendum perché costa tanto, ma non si parla degli effetti della mancata democrazia e del pluralismo politico che va a minare se dovesse passare. Cioè, con gli spot si fa presto a vendere delle cose e a far prendere sui cittadini, però è meglio entrare nel merito delle vicende, ed è questo l'impegno della Lega. Sta diventando il partito della spesa pubblica. Professor Guzzetta, ci sono 48 ore ancora, ma è improbabile che questo accada, per un eventuale abbinamento referendum elezioni europee. Se non accade, che succede? Possiamo dichiarare defunto il referendum? Noi siamo pronti. Se si vota il 14 o il 21 non ci sarà il quorum, come la facciamo? Guardi, tutti i referendum che hanno avuto successo in materia elettorale sono stati assistiti da pronostici nefasti, quindi potrebbe essere la conferma della regola. Noi ovviamente faremo la campagna per quale che sia il giorno, senza però mancare di segnalare che quello che si sta realizzando è uno sperpero e un atto di tracotanza che è stato imposto da un partito che si sta caratterizzando per essere un partito di palazzo ormai. D'altra parte sono 25 anni che la Lega esiste, i risultati della presenza della Lega si vedono, quello che andrebbe fatto è un sano e vero federalismo e mi pare che ne siamo ben lontani. La Lega sta perdendo l'occasione di spiegare ai propri elettori che è effettivamente un partito della modernizzazione del paese. Oramai è un partito che è perfettamente inserito nel palazzo e che quindi appunto ci dice che le province sono necessarie, che buttare i soldi dalla finestra non è un problema, esattamente quello che fanno i partiti più tradizionali. D'altra parte esiste un partito in Messico che si chiama Partito Rivoluzionario Istituzionale, che è stato al governo circa 60 anni. Ma poi la Lega è il più antico partito italiano. Esatto. Senta, professor Guzzetta, una obiezione di tipo molto diretto, molto esplicito, molto, se vogliamo, primitivo, ma insomma che ha un senso. Non la spaventa l'idea concretissima che nel caso si abbinino il referendum e le elezioni europee, Berlusconi avrebbe il giorno dopo il seguente potere: chiedere lo scioglimento delle Camere e ottenerlo, perché non ci sarebbe una maggioranza di governo alternativa, quella uscita dalle recenti elezioni politiche, andare alle elezioni col PDL e senza la Lega eventualmente, o riducendo la Lega o dividendola, insomma, o riducendola, domandola, eccetera, e poi regnare in contrastato con un 35-40% sulla politica italiana, con una maggioranza dura da rovesciare, diciamo, a quel punto. Questo, lei che è un uomo di sinistra, non pensa che debba essere messo nel conto come una variante? Così io prima di essere... Ho ragione, sono un uomo... Aggiungerei solo due dettagli. Prego. Potendosi anche a quel punto eleggere capo dello Stato, sì, perché nella prossima legislatura, come sappiamo... A me non dispiacerebbe. Immagino che a lei non dispiace, a me personalmente sì. E soprattutto... in una situazione in cui Berlusconi a quel punto, per cambiare la Costituzione a suo piacimento e senza neanche il referendum successivo a confermarlo, dovrebbe fare l'enorme fatica di accordarsi con la Lega e con l'UDC. Questo è il paradosso per cui tanti referendari... Allora, sentiamo su questa obiezione politica finale, anche perché siamo in fine trasmissione, il professor Guzzetta, uomo di sinistra che propone di realizzare un piano perfetto che darebbe a Berlusconi la signoria eterna sull'Italia. No, io intanto non sono un uomo di sinistra, sono un posso dire che si era capito. Mi definisco uno che ha a cuore il bene del proprio paese. Io personalmente credo nella democrazia e quindi credo che la democrazia sia un sistema in cui si compete e chi, come diceva Moro, ha più filo da tessere e tesse. Quindi non mi spaventa affatto l'ipotesi che ci sia un partito che ottiene la maggioranza. Questo è il sistema con cui funziona l'Inghilterra, la Francia, il Regno Unito, gli Stati Uniti, quindi non mi preoccupa affatto. Quello che mi preoccupa è arrivare a questo scenario sempre all'italiana, cioè senza fare delle riforme ponderate che andrebbero fatte. Per questo io mi auguro che vengano fatte e vengano fatte presto, ma l'idea che ci sia qualcuno che compete e vince, anche perché io sono dell'idea che in Italia sia il centrosinistra che il centrodestra può tirare fuori risorse per battersela nel futuro e per fare una competizione, come dire, democratica e funzionante. Non credo al destino, invece penso che la storia del mio paese mi insegna che ogni qualvolta le istituzioni sono state fragili, sono state deboli, è successo il peggio. Bene, grazie al professor Guzzetta, grazie a Luciano Dussini e a Cunderi, a Francesco Cunderi, grazie a voi ascoltatori. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrero, in regia Paolo Corleone, Giorgio Mattè, linea al GR e poi a Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. A domani.